Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ecco, finalmente siamo insieme, sono le 11 e quasi 08. Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Subito i titoli del nostro sommario, andiamo. Pressione alta, bassa o ballerina, ma non è sempre colpa del caldo. Pupo in viaggio, ricerca in pillole. Voglio darvi qualche indizio per capire se il tema della puntata di oggi vi tocca da vicino. Andiamo a sentire la nostra scheda. Hai qualche chilo in più che si è affezionato al tuo girovita? Non hai tempo di dedicarti ad un'attività fisica regolare? Fai fatica ad addormentarti e poi dormi poco? Hai una cefalea inspiegabile? Ogni tanto ti prende una strana agitazione? Ti sanguina il naso? Fai fatica a carburare al mattino? Ti senti spossato e privo di forze? Hai in famiglia degli ipertesi? Bene, se avete risposto sì ad almeno una di queste domande, fermatevi con noi e chiamateci al nostro numero verde 800 24 0024, pronto a rispondere alle vostre domande. E per me è un grande piacere averlo qua in studio con me, il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Non so se mi sale la pressione, però sono molto contenta di averla qua. Professore, le domande della nostra scheda, che sono così diverse tra loro, hanno un denominatore comune: i valori della pressione. Possono essere alti e quindi rappresentare un fattore di rischio importante, ma possono essere bassi. In questo caso, voi dite, rischi per la salute non ce ne sono, ma in alcuni momenti della giornata è facile avere la sensazione di andare avanti un po' col freno a mano tirato. Insomma, si fa fatica. In ogni caso, nel bene o nel male, la pressione, professor Remuzzi, ci condiziona, anche un po' a livello psicologico. Sì, la pressione è... La pressione vuol dire che siamo vivi. E beh, meno male. Pressione è la forza che il sangue viene impressa al sangue dal cuore, che si esercita sulla parete delle arterie, ed è questo che rende possibile la circolazione. Questa forza si può misurare, la misuriamo con degli apparecchi, i dottori li chiamano sfingomanometro, e questo è un apparecchio che è stato inventato da un medico italiano, si chiamava Scipione Rivarocci, e pensate, ha inventato questo apparecchio nel 1896. È ancora un apparecchio che usiamo sostanzialmente oggi, anche se c'è il problema del mercurio che crea problemi nella dispersione dell'ambiente, quindi si sta passando a dei sistemi di misura elettronica. La pressione la diamo con due valori: la pressione arteriosa massima o sistolica e la pressione arteriosa minima o diastolica. Sì. La pressione la esprimiamo proprio in millimetri di mercurio. Diciamo che una persona ha l'ipertensione arteriosa, le persone dicono questo è iperteso, quando i suoi valori di pressione arteriosa sono superiori al normale. Allora, però, professore, se proprio non riusciamo ad avere i valori normali, meglio comunque bassi. La pressione in generale è meglio averla bassa. Si vive però meglio e si vive di più. Si dice, si io meglio, che ho la pressione bassa, mi dicono, e ogni tanto mi lamento, e mi dicono, è la malattia di chi vive a lungo. Si vive meglio, si vive a lungo, poi vedremo che ci sono delle eccezioni, proprio bassa. Potrebbe anche non essere il caso, soprattutto quando cerchiamo di abbassarla troppo con i farmaci e quando una persona ha una certa età, ma naturalmente questo non è il caso di Nicoletta, come sanno molto bene gli ascoltatori. Senta, forse diamo dei numeri per sapere. Bravo, io vorrei dare qualche numero e poi vorrei capirne di più di questi numeri. Allora, qui ci sono tante commissioni che si sono riunite in tutti questi anni per cercare di dare proprio i numeri il più preciso possibile, che cosa definiamo per normale e che cosa definiamo per pressione alta. Allora, una di queste commissioni ha detto: normale è una pressione arteriosa inferiore a 120 su 80, 120 di massima sistolica, 80 di minima diastolica, millimetri di mercurio. Poi c'è qualcuno che ha detto, c'è però una condizione in cui uno non è davvero iperteso, ma non ha neanche la pressione così normale. Potrebbe essere una pressione tra i 120 e i 139 di massima e tra gli 80 e 89 di minima. Mm. Allora hanno detto, questa come la chiamiamo? Sono valori che non definiscono proprio l'ipertensione, ma non sono neanche davvero normali. Allora diciamo che questa è pre-ipertensione. Forse non è poi così necessaria questa definizione, perché preipertensione vuol dire, insomma, stiamo attenti, questa persona potrebbe anche un giorno avere una vera e propria ipertensione, e allora facciamo qualche attenzione allo stile di vita che ci consente di ritornare a dei valori che sono davvero normali. Allora, noi per dare i numeri potremmo dire meno di 120 e meno di 80 è davvero la pressione ideale, quella che diceva Nicoletta prima, io ho questa pressione qua che è un bel viatico per vivere a lungo. Normale, diciamo meno di 130 e meno di 85. Preipertensione, l'abbiamo definita prima, ipertensione lieve, 140, 159 su 90, 99. Ipertensione davvero quando uno ha più di 160 di sistolica e più di 100 di diastolica. Quindi invitiamo i nostri amici da casa a chiamare il nostro numero verde 824 0024 e a darci i loro numeri, i numeri della pressione. Però, professore, io non ho capito, questi due valori, la minima e la massima, chiamiamoli così, sono tutte e due importanti o un po' la massima che guida il gioco? Ma guardi, una volta si diceva è importante non avere alta la pressione diastolica, poi qualcuno ha detto è importante non avere alta la pressione sistolica, quindi prima si pensava che la minima fosse più importante da tenere sotto controllo, poi si è cominciato a pensare no, attenzione, ci sono problemi anche se la massima è alta. In realtà i valori sono importanti tutti e due. Per categorie diverse di ammalati è più facile che le persone relativamente più giovani abbiano una pressione diastolica, la minima, più alta. È più facile che gli anziani abbiano una sistolica, la massima, più alta. Non sono comunque regole generali. In ogni caso, dire che una pressione o l'altra sono spia di malattia è improprio. In realtà i due valori dovrebbero essere comunque nella norma o il più possibile vicini alla norma. E poi c'è un'altra idea che la gente ha. Uno dice in realtà la pressione dovrebbe essere 100 più gli anni. Allora vuol dire, per esempio, uno c'ha 90 anni. Ecco, uno c'ha 90 anni, c'ha 190 su 70. Va bene? No. certo, se uno ha 90 anni, non so quanto lo vogliamo far vivere, forse non è un dramma, ma se uno ne ha 70, per esempio, oggi una persona di 70 anni è nel pieno della vita, forse, in un certo senso. Potrebbe esserlo, ce ne sono tantissimi. Allora, a 100 più gli anni ha 170 e una minima di 70. Questa è, uno dice 100 più, è normale. No, affatto, questa è una ipertensione sistolica isolata. Circa il 65% delle persone con più di 60 anni soffre di questa condizione ed è una forma di ipertensione da curare perché può creare dei danni importanti. Allora, passiamo proprio, restando sui numeri, affrontare alcuni casi che ritornano spesso anche via SMS, ne stanno arrivando alcuni. Ad esempio, vado dal medico, mi misura la pressione, è alta, torno a casa e la pressione è bassa. Insomma, quello che noi diciamo ballerina, è ipertensione. A chi devo dare retta, professor Remuzzi? Al medico o al mio apparecchietto di casa? In generale all'apparecchietto di casa. Ballerina non mi piace. Io direi, quello che succede è, uno va dal medico, trova la pressione alta. Questo è il fenomeno che viene chiamato effetto camice bianco. È l'ansia per la misurazione o l'emozione di trovarsi nello studio del medico, possono fare aumentare i valori della pressione. Allora uno dice, sì, però gli ammalati dicono spessissimo così, però quando sono a casa è normale. E allora io dico, sì, ma quando uno attraversa la strada

di favorire una ventilazione dell'abitacolo o comunque un'esposizione all'aria fresca, quindi anche questi sono momenti che possono aiutare a prevenire questi disturbi. Possiamo farli giocare, cantare, ma non leggere né giocare, esatto, con i videogiochi. Sicuramente distrarli, questo credo che sia una cosa importante, ma non farli leggere, non farli giocare con i videogiochi. Questi sono sicuramente peggiorativi su un bambino che ha già soffre di questi disturbi. Professor Zuccotti, ci sono però per i casi un po' più seri dei farmaci in commercio. Io devo dire che mi piange sempre il cuore da dare dei farmaci ai bambini e penso che insomma si possa tentare prima con il gioco, facendogli mangiare un crackers, insomma qualche cosa. Però obiettivamente per i casi seri il parlarne con il pediatra può magari essere risolutivo. Sì, devo dire che ci sono, quindi sono prodotti, sono gomme masticabili, sono pastiglie, insomma, che bisogna ricordare che comunque sono efficaci se somministrati almeno 30-60 minuti prima della partenza, che possono comunque essere utilizzati nei primi 12 anni di vita alcuni e altri assolutamente dopo i 12 anni. Ecco, però possiamo mandare le nostre mamme all'ascolto il messaggio: parlatene sempre con il vostro pediatra prima di somministrare qualunque tipo di farmaco al vostro bambino. Ecco, il fai da te, l'iniziativa della mamma che di solito non sbaglia, in questo caso meglio consultarsi col pediatra. Intanto, professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. Mille, una domanda sulla pressione arteriosa. Oggi analizzeremo tanti casi, tra loro diversi. Siete ipertesi, la terapia non produce gli effetti sperati. Avete la pressione, il professor Remuzzi non vuole che dica ballerina, ma insomma che si muove andando dal medico, poi tornando a casa. Con il caldo, arriva la bella stagione, è arrivata. Notate che i valori stanno scendendo e vi sentite stanchi, affaticati. Insomma, oppure ancora, i numeri della vostra pressione sono tornati nella norma e avete una gran voglia di sospendere i farmaci. Questa è una tentazione a cui tante volte è difficile rinunciarci, ma oggi avremo modo di parlarne, di confrontarci con il professor Remuzzi, 824 0024. Professor Remuzzi, comunque un dato di fatto che l'idea di essere ipertesi non ci piace, per alcuni suona come una specie di condanna, perché si sa che chi inizia a prendere la pastiglietta o le pastigliette non può più smettere. Poi c'è anche il fatto che si sente che non sempre i farmaci danno l'effetto desiderato, e senza contare poi che i farmaci portano sempre con sé qualche effetto collaterale. E insomma, questo è un po' una situazione che arriva in un punto della nostra vita, andiamo dal medico, scopriamo che i valori non sono più quelli di una volta, è un po' un colpo. Sì, quello che succede è che quando uno scopre di avere la pressione alta va dal medico, e qui i medici si dividono in due categorie. Quelli che dicono la pressione è alta, non è così alta da partire subito con i farmaci, e suggeriscono una modificazione di certi stili di vita, per esempio mangiare un po' di meno, mangiare in modo un pochino più sano, l'abbiamo detto mille volte che cosa vuol dire, e soprattutto muoversi. La cosa che fa diminuire la pressione più di qualunque altra è muoversi. E allora il medico dice: guardi, ritorni tra un paio di mesi dopo avere camminato per mezz'ora al giorno, per 40 minuti al giorno, fatto un po' di sport. E oppure i medici che dicono: ah, la pressione è alta, prenda questo farmaco. Allora la persona va a casa, prende il farmaco, il farmaco gli abbassa la pressione magari anche in modo abbastanza significativo, comincia a non star più bene e smette di prendere il farmaco. La maggior parte delle persone con la pressione alta non prendono i farmaci, e quindi abbiamo perso l'opportunità di curare bene questo ammalato, perché lui avrà l'idea che in realtà il farmaco lo fa star male, perché era abituato a una pressione un pochino più alta. Ecco, e quindi è importantissimo incominciare sempre comunque, indipendente, a meno che i valori non siano altissimi, qui entriamo in casi molto particolari, dobbiamo cominciare con fare delle piccole modificazioni dello stile di vita che hanno dei risultati straordinari. Allora, in linea con noi ho invitato un mio amico, è Alessandro Cecchi Paone. Alessandro, ciao! Buongiorno a te, buongiorno professore, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per essere con noi, Alessandro, perché tu mi dai sempre una mano per mandare dei messaggi. E oggi, a proposito di pressione, anche tu hai da raccontarci la tua storia. Ma guarda, è straordinariamente rispondente a quello che diceva il professore nel primo caso, ho avuto la fortuna di avere sempre dei medici, come dire, molto graduali e molto intelligenti, per cui nessuno si è mai sognato di darmi di colpo dei farmaci. Sì. Perché mi hanno appunto detto: diamo un po' un'occhiata alle abitudini, agli stili di vita, vediamo un po' se si tratta di cose legate alla professione. Sapete che fare il giornalista di solito comporta problemi di pressione alta o problemi di cattiva digestione, quindi, come dire, sono perfettamente nella media della categoria. e quindi effettivamente c'è stato prima un tentativo legato agli stili di vita. Indubbiamente io faccio adesso meno sport di quando ero più giovane perché ho meno tempo, e questo non certamente non ha aiutato. Allora, ecco, questo non ha avuto grandi risultati. Allora si è ipotizzato un problema legato alla professione, alla tensione continua che è richiesta a chi fa il mio mestiere, e quindi un po' di beta bloccanti. Il risultato è stato che sono diventato tranquillissimo, ma la pressione è rimasta leggermente alta. E allora si è passati all'ipotesi, come dire, genetica, ereditaria, perché effettivamente è un problema di famiglia, e lì si è passati a un calcio antagonista blando ma regolare, ed effettivamente abbiamo sortito gli effetti sperati. Adesso con regolarità prendo un dosaggio basso di beta bloccante, di calcio antagonista, e tutto è andato a posto. Sono su 80-130 come un bimbo. 80-130, professor Remuzzi, promosso. Perfetto. Promosso, Alessandro, però la dieta poco sale... Stai attento? Questo sì, ma devo dire che già lo facevo, quindi secondo me l'unico elemento vero non legato all'ereditarietà è certamente lo sport fatto in misura minore che in passato a causa della mancanza di tempo. Sul resto mi ero già, come dire, premunito, perché una buona dieta, uno buono stile di vita fa bene a tutto e non solo alla pressione. Se posso approfittare del professore, sì. Io però mi sono un po' divertito a sapere che secondo alcune nuove indicazioni io non avevo la pressione alta, perché mi è stata definita alta con un 95-140-145, ma ho visto che di recente si sta pensando di alzare a questi livelli la pressione considerata normale, quindi forse potrei essere considerato uno che deve smettere i farmaci. Sì, siamo molto vicini a questa condizione qua. In realtà c'è stata questa definizione di preipertensione, vuol dire qualcosa che precede l'ipertensione, basta muoversi un po' e fare attenzione, come lei fa già con l'alimentazione in generale, si può fare a meno dei farmaci in queste condizioni. Alessandro, un bacio. Evviva! Alessandro, promosso, un bacio, grazie per essere stato con noi. Ecco, ci siamo tornati insieme. Voglio dare subito la parola a Patrizia da Como, 824 0024. Oggi vogliamo sistemare un po' la nostra pressione. Quindi consigli per chi ha la pressione, una sorta di preipertensione, ma anche per chi sta prendendo farmaci e non riesce a raggiungere i valori ottimali. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, fantastica Nicoletta e sempre i fantastici ospiti. Io penso, cioè, ho chiamato perché penso che devo essere soppressa, perché ho risposto come si dice dalle nostre parti, a sun conciada de travia. Al sud Italia forse non lo capiscono. Devo essere soppressa perché ho risposto quasi tutti sì alle domandine dell'inizio trasmissione. A parte il fatto che io non faccio fatica ad addormentarmi, perché svegliandomi all'alba, grazie agli uccellini di questa stagione, alle 21:45/22 crolla svenuta. Crollo perché... Ma Patrizia, lei la pressione se la misura, sa i valori oppure non ci ha mai pensato? La mia pressione è ballerina, perché talvolta è tendente al basso e talvolta è tendente all'alto. Sono estremamente pigra al punto che faccio fatica a fare le scale di casa mia per andare alla zona notte. Mi pesa, ci vado una volta per dormire, punto, non ne voglio più sapere. E ahimè, ultimamente, adesso vedo di essere meno buffona, meno cabarettista, ultimamente invece appena ho già 48 anni, faccio una rampa di scale, un piccolo sforzo, ho l'affanno. Mi stanno un po' pressando di farmi qualche analisi, ma sì, ho tanta paura. Allora, grazie Patrizia, affidiamola al professor Remuzzi. Allora, non dobbiamo sopprimerla. No, certamente, anzi dobbiamo aiutarla a vivere bene per tanti anni, al di là dei valori della pressione. Se ha un po' di affanno nel fare le scale a 48 anni, lei avrà un bravo medico di famiglia. Incominciamo a sentire il medico di famiglia. Lei fuma, signora? Sì, sì, ma non da fumatrice da castigo. Sono una fumatrice da salotto. Se sto in salotto fumo, altrimenti per 3-4 giorni non fumo, dipende. Ecco, sì, signora, il fumo fa male sempre, anche una sigaretta fa male, ma... Scusi. No, no, infatti ultimamente ho questo problema di abbassamento di voce e ho paura sinceramente ad andare dal medico. Patrizia, non possiamo accompagnarla noi, ma l'invito è di andare dal suo medico, di farsi dare una controllatina, poi l'aspettiamo qua, che ecco, così ci dice che cosa le ha detto. Patrizia, che ci ha suggerito del fumo per la raucedine, rappresenta l'occasione per noi per dire agli spettatori, attenzione che... cura per la pressione e fumo non vanno d'accordo. È inutile pretendere di abbassare la pressione con i farmaci se uno fuma. Ci sono degli studi bellissimi che fanno vedere, misuriamo la pressione prima, poi fumiamo una sigaretta, poi rimusiamo la pressione dopo la sigaretta e vediamo che la pressione è aumentata col fumo. Poi diamo un farmaco per la pressione e vediamo che quando uno non fuma il farmaco abbassa la pressione, se uno ha fumato una o due sigarette il farmaco non riesce più ad abbassare la pressione. Quindi si prendono farmaci inutilmente. Assolutamente. Allora scegliamo tra i farmaci e il fumo. In Inghilterra se uno fuma non gliela curano la pressione. Oh mamma mia, Antonio da Caserta, come sono, sono severi questi inglesi. Antonio, lei fuma? No, io fumavo veramente. Ecco, Antonio ha smesso, si è già portato avanti, la sua pressione come va? La pressione viene non andando bene, perché a volte, come diceva prima il dottore, la mattina è bassa, poi è un po' ballerina, parla un pochettino. Però volevo chiedere al dottor Raimondo. Remuzzi, si chiama il professore si chiama Remuzzi, tanto per... niente Antonio. Allora, volevo chiedere al professore, il mio medico mi aveva consigliato delle pasticche, però io non le voglio prendere. Volevo chiedere al professore, c'era qualche rimedio? Visto che su internet, quella naturale, ho letto facendo dei decotti di foglio di ulivo. Volevo chiedere questo al professore. Grazie, grazie a lei Antonio. Grazie a lei. Professore, allora, Antonio le pasticche non le vuole, non le vuole prendere. Però non fuma. Però non fuma, quindi, fumava, quindi un po' di danno è rimasto nelle arterie, quindi la pressione può essere anche un po' alta perché fumava in passato. Adesso noi possiamo sapere quanto pesa Antonio? Ha messo giù e ci sta seguendo per radio, non possiamo saperlo, buttiamola lì. Avrà 48 anni Antonio, secondo lei? 50? Forse. Chiediamo il peso perché noi dobbiamo, nel curare la pressione, tendere soprattutto a questo famoso indice di massa corporea che sia normale. Ne abbiamo già parlato, ne parlano sempre tutti, l'indice di massa corporea è normale quando è sotto i 25, uno è in sovrappeso tra i 25 e i 30, uno è decisamente obeso sopra i 30. L'indice di massa corporea si fa col peso e poi si divide per altezza al quadrato, quindi uno pesa 90 kg, altezza 170 per 170, 90 kg diviso 170 per 170 fa 31, siamo nell'obesità. Ecco, la prima cosa da fare è fare tutti gli sforzi per portare l'indice di massa corporea sotto i 25. Poi parliamo di cura della pressione. Quindi prima di iniziare scendere. Certo, non ci si riesce sempre, allora bisogna a un certo punto fare i farmaci, ma certo che se Antonio fosse con un indice di massa corporea che indica sovrappeso, e io penso che questo potrebbe essere il caso da quello che ci siamo fatti un'idea ascoltandolo, allora lì non è tanto il decotto di foglie di ulivo, mi pare, quello lì non funziona. Funziona invece mangiare più frutta, più verdura, mangiare in generale di meno, mangiare meno grassi, non salare, e quello incomincia ad essere un trattamento senza farmaci. È giustissimo, non voglio prendere i farmaci. Bisogna vedere cosa, a che punto si arriva con le altre misure. Giuseppe invece ci chiama da Caltagirone. Buongiorno Giuseppe, poi andiamo a Laura da Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. C'è una scalinata meravigliosa a Caltagirone, lunghissima, tutta di ceramica. Bellissima, famosa in tutto il mondo. Buongiorno dottore. Buongiorno. Le faccio una domanda semplice. Sì. Io ho 56 anni e adesso peso 90 kg, però soffro di pressione alta dall'età di 47 anni. Sì. E praticamente all'inizio ho iniziato a prendere l'aglio a digiuno, poi il Minimax, che è un composto di ulivo, biancospino e aglio, e funzionavano. Dopodiché hanno smesso di funzionare, sono dovuto andare dal medico, il quale mi ha dato delle pastiglie di Dilatrend 6.25, quindi beta bloccanti in effetti, da prendere la mattina e la sera. Queste come pastiglie va? In inverno funzionano, però la diastolica rimane sempre sopra i 90, in inverno rimane 98, 100, 105, non scende mai sotto il 90. In estate la sistolica si mantiene a 127, mentre la diastolica non va mai sempre sotto i 90. C'è un farmaco specifico per fare scendere la minima? Bella domanda, Giuseppe. Professor Remuzzi, allora 56 anni, 90 kg, e da quando aveva 47 anni che ha la pressione alta, ha provato aglio, intrugli, eccetera, e poi si è deciso a prendere il farmaco. Ma non ci ha detto del fumo? Giuseppe? Non fumo. Giuseppe no, non fumo. Non fuma, Giuseppe, è un virtuoso. Quindi... è un pochino più complicato. Se fumava potevamo dirgli di non fumare. No, la pressione non è altissima in realtà, perché se la sistolica è davvero 120 andiamo bene. Io credo che il nostro ascoltatore è soprattutto in sovrappeso, quindi va benissimo usare questo farmaco. Si possono usare anche altri farmaci, per esempio i calcio antagonisti sono farmaci che danno vasodilatazione, quindi riducono molto bene la diastolica. Però io credo che se noi combiniamo questo farmaco, in generale nella cura dell'ipertensione, la cosa migliore è utilizzare i farmaci, sono diversi, agiscono in modo diverso, ma l'importante è prendere il farmaco con cui uno si trova bene, con cui ha, quando si tratta di ipertensioni non particolarmente gravi come in questo caso, con cui ha più confidenza, che gli dà meno effetti collaterali e che normalizza o rende la pressione il più possibile vicino al normale. Io credo che se qui combinassimo una riduzione del peso, 90 kg è tanto, quindi bisogna combinare una riduzione del peso, quindi movimento soprattutto e dieta, con il farmaco, perché il farmaco da solo non riesce a normalizzare perfettamente la pressione in una situazione di sovrappeso, però questa è una pressione discretamente controllata, quindi non è difficile sistemarla. Professor Remuzzi, prima di andare alle strade, una risposta secca: abbiamo detto chi fuma e prende la terapia per la pressione non ha effetto, la terapia non funziona, non funziona. Funziona molto chi meno. Beve? Il bere non è un problema, anzi in un certo senso l'alcol induce anche una certa vasodilatazione, quindi il bere non aumenta la pressione. Il bere però ha talmente tanti effetti collaterali sulla funzione di tanti organi che alla fine può esserci una ricaduta negativa anche sulla pressione. Eccoci, siamo tornati insieme. Professor Remuzzi, prima di dare la parola a Laura che ci chiama da Roma, è vero che alcuni farmaci per la pressione provocano impotenza e si possono prendere farmaci contro l'impotenza se si è ipertesi? È vero. Prima di affrontare questo problema, però, forse dovremmo dire che anche la pressione alta è una causa importante di disfunzione erettile e di impotenza. E questo è dovuto a problemi vascolari. Il diabete, per esempio, che molto spesso si associa alla pressione alta, è causa di impotenza. Si è visto che almeno il 65% degli ipertesi hanno decisamente problemi di ipertensione. Poi la cosa è ulteriormente complicata dal fatto che tanti farmaci che si usano per la pressione peggiorano la situazione della disfunzione erettile, soprattutto la clonidina, lo spironolattone, certi diuretici come i tiazidi. Beh, questo non aiuta, eh? Questo non aiuta. La prima cosa che bisogna fare è identificare la causa del problema. Perché può essere l'ipertensione stessa più che il farmaco. E poi ci sono questi farmaci, allora uno dice è l'ipertensione, è il farmaco. È importante sapere se è l'ipertensione o il farmaco, perché uno può cambiare farmaco, non tutti i farmaci hanno questo problema qui e non l'hanno allo stesso modo in tutti gli ammalati. E poi ci sono questi farmaci come il Viagra o questo Cialis, che sono degli inibitori delle fosfodiesterasi, si dice dal punto di vista tecnico, sono farmaci molto popolari, sono efficaci, possono essere utilizzati per antagonizzare l'effetto negativo dell'ipertensione. Quindi uno prende una pastiglia per la pressione e una pastiglia per ridurre l'effetto collaterale della pastiglia della pressione. Lo so. Qua si vive a farmaci. Qui si vive a farmaci, non è la cosa ideale, però a un certo punto... non è che ci sono delle altre soluzioni, ecco, bisogna fare attenzione, queste cose non va fatto il fai da te, ci vuole il medico, perché per esempio questi farmaci vanno evitati se uno contemporaneamente prende dei nitrati che sono normalmente prescritti per l'angina, per la malattia del cuore, delle coronarie. Insomma, la situazione si complica. La situazione si complica, comunque sono tutte cose da fare con il consiglio del medico. Come sempre, capire bene la causa e poi ci si orienta in base alla causa sulla strada da prendere. Andiamo a Roma. Laura, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Laura, devo chiederle già subito se fuma e quanto pesa, vero professore Muzzi? Certo. Sì. Non le io non ho mai fumato. Brava. Sono alta 1,65, peso sui 63-64 kg. Premetto che mio marito 9 anni fa ha avuto un infarto, cioè un ictus per la pressione alta. Sì. E vivo da 9 anni uno stato un po' ogni tanto di ansia. Sì. E mi è stata riscontrata qualche volta la pressione un po' alta, ma in occasioni particolari. Quindi ho fatto un oltrepressorio prima di prendere dei farmaci. Era una giornata molto calda, molto afosa. La pressione diciamo che era bassa, tendenzialmente bassa. Solo al risveglio la mattina presto, per 2-3, la pressione viene presa ogni quarto d'ora. Sì. E quindi in quell'occasione per 2-3 volte mi si è trovata una pressione sopra i 90 e 160 di massima. Sì. Volevo sapere se è sufficiente quello che mi ha detto il medico, cioè di consultare un neurologo e di prendere ogni tanto un tranquillante nei momenti in cui posso poi essere particolarmente emotiva. Grazie Laura. Professore Muzzi. Sì, è giustissimo, non mi sembra che la signora sia ipertesa. Nella rilevazione durante la giornata l'importante è che siano normali la maggior parte delle misurazioni, diciamo l'80% delle misurazioni sia nei range normali che abbiamo definito prima. Occasionalmente la pressione si alza, in tutti quei valori lì sono perfettamente compatibili con una situazione normale, va benissimo un tranquillante nel caso che si tratti di affrontare situazioni particolarmente difficili sul piano emotivo, senza esagerare. Ve l'avevo anticipato, è in linea con noi Loretta Goggi, che è venuta a trovarci. Loretta, benvenuta. Buongiorno. Possiamo scambiarci con il saluto, tuo, che è già felicità, no? Felicità. Senti, prima ti chiedo della pressione, ma volevo, dato che abbiamo detto che tante volte la pressione, quando siamo particolarmente emozionati, aumenta. Sì. Domani Loretta, tu sarai testimonial, presenterai un incontro molto importante, sarà con te anche la professoressa Rita Levi Montalcini, per una giornata dedicata a un'organizzazione molto importante che segue il progetto di sviluppo sanitario nei paesi poveri del mondo. E l'organizzazione si chiama AFMAL, di cui tu sei testimonial. È la prima volta che faccio da testimonial per così tanto tempo, nel senso mi sono assunta questo ruolo, che spero naturalmente di assolvere nel migliore dei modi. Di solito si pensa sempre che gli artisti tutto sommato approfittino, no, del fatto di essere testimonial di qualcosa, di qualcuno, di qualche campagna, per farsi un po' di pubblicità. E questo io ho sempre cercato di evitarlo partecipando a moltissime iniziative, ma diciamo sottotono. Guarda Loretta, questo persona. Dubbio non viene, perché tu hai un curriculum di tutto rispetto, quindi sicuramente ti meriti questo ruolo, lo porterai avanti benissimo, e soprattutto perché l'organizzazione è un'organizzazione molto seria che fa segue dei progetti molto belli in tutti i paesi poveri del mondo. Sento e 40 paesi del mondo e in 47 paesi del mondo con 400 e passa sedi, dove praticamente prepara il personale sul posto, cioè non è che colonizza, va lì, fa, rimane e gestisce gratitudine e mezzi, forma personale medico e paramedico per poi poter lasciar camminare i popoli con le loro gambe. E questo l'ho trovato molto importante. Poi ogni missione, e a una ho partecipato anch'io in Mali, in Africa, si torna con dei risultati tangibili. Cioè la mia missione si chiamava Ridare la luce. Siccome in Mali, che è il terzo paese più povero dell'Africa, quindi figuriamoci in che situazione si vive, si nasce con la cataratta congenita, per questioni proprio igienico-sanitarie, ambientali, eccetera, si pensa di essere non vedenti. Molti vengono chiusi in istituti, certo. Altri bambini vengono messi al servizio di chi non vede per tutta la vita, si chiamano bambini guida. Quindi andare lì, visitare decine di migliaia di persone e riuscire ad operarne centinaia, torna a casa con qualche cosa di... Sì, torna a casa, è vero. Ricordo anche il sito. Dentro il cuore, capito? Ricordo il sito dell'AFMAL, www.afmal.org, e invece, insomma, sicuramente sarai emozionata, domani è il grande giorno, ma la tua... 30 anni, lo sai? Sì, sì, sì, questo lo so e per questo ne parliamo oggi. E, la tua pressione, come si comporterà di fronte domani? Io sono molto emotiva, quindi sicuramente ti posso dire che mi emoziono anche quando devo solo ritirare un premio e dire grazie molte per avermi votato, per dire. Sì. Quindi partiamo dal presupposto che mi agiterò e che sicuramente la pressione salirà. Io sono una che di norma, fino a che sono stata, diciamo, più giovane, ho avuto la pressione bassa. Questo non ha mai influito sull'umore, eccetera. Anzi, io la mattina parto sempre con molta energia. Adesso ci sto un pochino più attenta e avverto dei segnali quando la pressione si sposta, diciamo così, perché spesso è perché si abbassa e spesso è perché si alza. Allora, dedichiamo proprio l'ultimo minuto di trasmissione a trattare il caso di Loretta, che è un caso molto comune, no? con l'età, insomma, dopo gli ANTA, quando si gira l'angolo, anche le persone che hanno la pressione bassa tendono ad averla un pochino più alta e spesso capita nelle donne. Professor Remuzzi. Sì, capita. L'ultimo pensiero alle nostre ascoltatrici che rientrano in questa categoria. Beh, l'età si tende a... L'età è un fattore legato... L'aumento della pressione legata all'età è molto ben conosciuto. Si tende qualche volta, soprattutto nelle donne, dopo un certo periodo ad avere più ritenzione di acqua e sale. Si tende ad avere... aumentare un pochino di peso. Si tende ad avere anche una forma modesta di obesità addominale, è sufficiente per aumentare i livelli della pressione, diminuiscono gli estrogeni che sono dei vasodilatatori e quindi sono una serie di ragioni per avere una pressione un po' più alta legata all'età. Però insomma, se la pressione qualche volta è bassa e qualche volta è alta, io penso che sia una pressione normale, la quale qualche volta è alta in condizioni di particolari situazioni emotive, e questa è una reazione sostanzialmente normale a certi momenti della nostra giornata. Quindi ricordiamo ancora stile di vita. Certamente. Movimento, certo. No fumo, certamente, i farmaci quando servono. E c'è una cosa da sfatare, che delle persone anziane o veramente anziane, diciamo maschi soprattutto, 80 anni, hanno la pressione alta 170-180, non si cura. Non è vero, uno studio bellissimo pubblicato proprio l'anno scorso fa vedere come si allunga la vita degli anziani se noi facciamo attenzione a queste pressioni 170-180 che una volta non si curavano perché tanto a 80 anni, e invece anche le persone di 80 anni devono avere una pressione sistolica che si avvicina ai 130-140 e in questo modo vivono di più. Allora saluto la nostra amica Loretta Goggi, in bocca al lupo per domani e per grazie, tutti i progetti dell'AFMAL. Grazie al professore per tutte queste indicazioni che sono... Sì, magnifiche. Per il professor Remuzzi abbiamo tutti una passione speciale. Il professore deve tornare, noi dobbiamo scappare perché abbiamo sforato. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata. Grazie a tutti. We'll be right back.